Torniamo in studio, continuiamo questa serie di interventi sul lavoro migrante. Abbiamo gradita ospite una compagna della rete Campagne in Lotta, che salutiamo. Ciao. Buongiorno, ciao. Volevamo con te parlare, diciamo, cercare di approfondire un po' la questione del lavoro bracciantile. Quindi prima abbiamo parlato sia del lavoro gratuito e volontario per i richiedenti asilo, sia in parte del lavoro della logistica, e adesso ci affrontiamo questo tema abbastanza anche assorto alle cronache a causa, insomma, dei problemi accaduti in Puglia, anche delle morti che ci sono stati addirittura di lavoratori. E quindi vorrei proprio cominciare a parlare della regione Puglia, dove forse il lavoro bracciantile è tra le regioni in cui è più forte, non solo ma anche in Calabria, anche nel nord Italia. Però possiamo partire dalla situazione della Puglia, chiedendoti un po', diciamo, ti faccio una panoramica su quello che è il lavoro migrante, in particolare bracciantile, in Puglia. Chi sono poi queste persone che lavorano, quindi da dove provengono, che condizioni di sfruttamento devono subire? Quindi se tu dalla tua esperienza ci puoi raccontare un po' questa situazione. Allora, ciao a tutti e a tutte. Allora, innanzitutto volevo fare una breve introduzione sulla rete, proprio per dare, diciamo, un po' più di linee guida a chi ci ascolta, e casomai è la prima volta. E la rete nasce appunto proprio su due episodi legati appunto a lotte sulle condizioni di lavoro: la rivolta di Rosarno, che ha subito poi tante riflessioni, analisi spesso sbagliate, del gennaio 2010, che altro poi non è stato che un importante e molto sentito sciopero sul lavoro, e lo sciopero di Nardò dell'agosto 2011, anche quello assolutamente auto-organizzato come il primo, con altre modalità, sempre appunto una componente straniera, essenzialmente provenienti dall'Africa subsahariana e nel Nord Africa. Quindi da questa esigenza, da questi percorsi, diciamo, è nata una rete nazionale, che è nazionale per forza, perché proprio, come appunto è stata fatta anche la premessa, il lavoro agricolo, soprattutto il lavoro agricolo legato all'agroindustria, che quindi ha anche, diciamo, oltre a una portata economica, anche dei ritmi, una struttura profondamente diversa dal lavoro agricolo contadino cosiddetto, e quindi è iniziato un attenzionamento da parte di appunto lavoratori, compagni, addetti ai lavori, che si sono coordinati e messi a rete in maniera del tutto autonoma e auto-organizzata in diversi territori d'Italia, dal Piemonte alla Basilicata, la Puglia e la Calabria. E sicuramente la Puglia, come è stato già anticipato, è un territorio interessante da molti punti di vista, e anche dal punto di vista dei percorsi di lotta che si stanno articolando negli ultimi tempi. Quindi Puglia sì, un territorio decisamente agricolo, dove tra l'altro anche i lavoratori stranieri stessi, rispetto, in un confronto con le regioni, delle altre regioni del meridione, riportano valori che ovviamente noi prendiamo sempre con le cosiddette pinze, i valori sui contratti di lavoro e sulle presenze, perché diciamo i filtri, no? I fattori con cui vengono poi appunto dire che ci sono circa 30.000 occupati in agricoltura, ovviamente va abbastanza poi ponderata, capire che tipo di occupazione è, occupati stranieri, quasi 30.000, che è un dato abbastanza significativo, ovviamente, che riguarda tutti, e riguarda ovviamente anche non solo la stagione del pomodoro, che è quella che poi tira di più in termini di presenza e in termini di sfruttamento. Quindi già la Puglia presenta questa anomalia, e in particolare la provincia di Foggia, che appunto è terra del pomodoro, e lì la presenza di stranieri è assolutamente consistente in termini proprio di residenze, quindi un dato ufficiale, ma cioè rappresentano quasi il 40% di tutti i residenti in Puglia, quindi un dato importante. Ovviamente il dato poi sul lavoro, ma anche sulla presenza, si sfumano, perché non tutti hanno accesso alla residenza e non tutti hanno un contratto di lavoro. Quindi c'è questo forte motore del pomodoro, che è un forte motore non solo per la manodopera che arriva lì appunto durante le stagioni, arrivano tra i 20.000 e i 25.000 lavoratori stagionali, di cui la maggior parte tra l'altro sono comunitari rumeni e bulgari, quindi dove la partita del permesso di soggiorno improvvisamente viene meno. quelli che poi invece si sono più spesi nelle lotte e anche sono più visibili, e poi appunto adesso i motivi poi sono tanti altri, oggi forse non c'è lo spazio dell'approfondire anche questo aspetto, sono coloro che il permesso di soggiorno non, diciamo, per loro è un problema, quindi i cosiddetti non comunitari, ed è quelli con cui poi noi come lavoro che portiamo avanti dal maggio 2012 dentro quel territorio, sono quelli con cui siamo più con facilità, e ammetto molte virgolette sulla parola facilità, riusciti a entrare in contatto e creare un rapporto di fiducia, perché questo è di sicuramente stato il primo ostacolo. Facendo un parallelo con il settore della logistica, visto che prima c'è stato un intervento, sicuramente un intervento in un settore lavorativo organizzato in quel modo è più, ovviamente con tutte le sue difficoltà, più facile, perché lì è individuato chiaramente il luogo di lavoro e quindi anche eventuali mobilitazioni si possono organizzare più facilmente. In Campania il cosiddetto turnover di manodopera è di una velocità infinita, soprattutto appunto in un territorio come il Foggiano, diciamo, con i ritmi della raccolta che durano poi un mese, quindi veramente poco, quindi uno sciopero sarebbe, diciamo, un auto gol tra i lavoratori stessi probabilmente, cosa che funzionò a Nardò, ma Nardò aveva proprio altri numeri, come ha funzionato in Basilicata, ha funzionato in altri territori, quindi lì è ovvio che il lavoro è un lavoro diverso da fare, cioè come, ed è quello su cui ovviamente si ragiona insieme lavoratori e diciamo solidali tutti, che sono italiani e stranieri, ecco, diciamo non ci, cioè, c'è una grande mescolanza da questo punto di vista. Questo per dire che in realtà poi, diciamo, le lotte che oggi stanno appunto, diciamo, macinando anche con una certa velocità nelle campagne, hanno trovato prima di tutto nell'ottenimento del permesso di soggiorno e non solo, di tutta un'altra serie di documenti, vedi le residenze, vedi i passaporti, diciamo il motore su cui poi ovviamente necessariamente costruire le altre lotte, e questo ovviamente fa riflettere, no? È quasi inverso a quello che accade nella logistica, dove si inizia con, si è iniziato sin da subito ovviamente con le lotte sul lavoro, e inizia a esserci anche un passaggio nella lotta sui permessi, perché la maggior parte poi sono lavoratori stranieri, visto che poi oggi di questo si parla qui, quindi questo è un dato che, nel senso, ci teniamo a sottolineare, non come, diciamo, avevamo iniziato con un'idea e siamo arrivati da un'altra parte, cioè è come una sconfitta, ma in realtà come una riflessione da fare e da lanciare anche qui un po' in radio, come una riflessione da fare ad altri percorsi, se spesso poi la manodopera è soprattutto straniera, non comunitaria, ovviamente, parlando con i lavoratori, quindi, e le lavoratrici, andando direttamente da loro senza, nonostante sono io oggi qui che parlo e non è un lavoratore, però senza rappresentare altri, quella rimane l'esigenza di fondo, quindi anche per, diciamo, capire, sicuramente legata al lavoro, che è un lavoro, diciamo, un po' per caso, no? Quindi parlare di condizione bracciantile secondo me è anche un po' riduttivo, perché spesso ormai, vabbè, gli anni sono passati, siamo nel 2016, si può parlare di braccianti per caso, perché molto spesso quelle persone che lavorano in campagna sono il risultato visibilissimo di una crisi economica, dei suoi effetti devastanti, che garantiti al nord in un sistema, espulsi perché perso il permesso di lavoro, perso il contratto di lavoro e poi a seguire anche il permesso di soggiorno, si sono ritrovati in territori dove comunque la sopravvivenza quotidiana, seppur tragica, è più sostenibile che in Piemonte piuttosto che in Lombardia. E allora cerchiamo un po', stiamo introducendo un po' il tema, di capire quali sono poi realmente le condizioni di sfruttamento, quindi orari di lavoro pare, cioè in che maniera poi lo sfruttamento si concretizza su queste persone? Lo sfruttamento nel lavoro agricolo è uno sfruttamento ancora più tragico di quello appena descritto dal lavoratore della logistica che ha parlato poco prima, perché qui proprio il problema è di come è proprio strutturato il lavoro in agricoltura, che nessuno ha mai affrontato effettivamente, cioè il meccanismo d'ingresso, e dove necessariamente e anche abbastanza naturalmente si viene a creare poi questa figura assolutamente condannata, che è quella del caporale, che in realtà è sia quello che ti permette di accedere al mercato di lavoro e sia quello che ti permette di arrivare nel posto di lavoro. Quindi la domanda è: perché cioè se esiste questa figura che ovviamente diventa la causa di tutti i mali a oggi, e spesso poi coincide con persone non italiane, che cosa succede? Cioè, nel senso, allora la domanda è, allora in realtà queste persone offrono un servizio? Cioè, provocatoriamente potrei anche dire, non l'ho detto io, lo dicono i caporali che lavorano nei ghetti, se allora da contratto provinciale le aziende devono garantire il pagamento, il trasporto verso i luoghi di lavoro, allora pagateci, diciamo, strutturiamo un lavoro che noi già facciamo, ovviamente sulla pelle dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, però lo potremmo fare, diciamo, in modo provocatoriamente. La stessa provocazione, perché il parallelo è forte, c'è tra il caporale e lo scafista. In Europa non esistono canali di ingresso per entrare, tema di cui non parla nessuno se non di soldi, però effettivamente, ovviamente senza, che è sempre una provocazione la mia, anche lì lo scafista fa un servizio di corridoio umanitario, scusate l'espressione, che effettivamente non fa nessun altro, no? Così come tutte le leggi sull'immigrazione sono volte a militarizzare i mari, proprio diciamo criminalizzando il trafficante, e poi insomma si muove su tre vertici: quello del narcotraffico, quello della tratta e quello della figura del trafficante, e così si giustifica tutta la politica di militarizzazione dei mari. Che lo stesso può avvenire nelle campagne, quando ti dicono noi i controlli li facciamo, perché appunto ci sono i carabinieri e tutta la task force degli ispettorati IMS, tant'è che appunto due giorni fa hanno fatto 24 arresti a Foggia dentro l'IMS stesso, proprio per una serie di contratti di lavoro falsi e di ingressi irregolari. Quindi appunto poi quello è un po' il trend, che però non affronta mai il problema, non lo risolve mai il problema. Invece una cosa che sarebbe da chiarire è quella del rapporto tra lo sfruttamento e i dispositivi di controllo dei migranti, quindi CIE, CARA e quant'altro. Quindi esiste un rapporto poi diretto, secondo la tua esperienza, tra queste, diciamo, forme di dispositivi di controllo e poi quello che è il lavoro sottopagato o sfruttato? Aggiungerei anche il carcere a questi dispositivi, perché spesso chi porta avanti poi le proteste o chi da sfruttato si ritrova a vivere nell'extra legalità vede le gabbie del carcere. Assolutamente sì, entrambe le osservazioni, nel senso che questa è un'osservazione che ci siamo trovati a fare appunto come rete, come collettivo, diversi anni fa, proprio perché basta guardare. Io parlo del sud, appunto, anche se poi non è solo sud, però è quello che, diciamo, conosciamo meglio e su cui è più attivo un intervento, e anche poi quello dove c'è più forte una presenza appunto di queste strutture detentive di varia natura. Quindi se uno osserva poi la geografia, non tanto della Campania ma sicuramente della Puglia, la Sicilia in questo diventa emblematica, e in parte anche della Calabria, sicuramente c'è un forte collegamento tra la presenza di grandi strutture dove esiste tanta gente che sta lì, è costretta a stare lì con una mobilità comunque forzata, sia che un CARA, sia che un CIE, sia che un carcere, e poi però è a completa disposizione di un mercato del lavoro che va avanti, che frutta miliardi, però con ovviamente a costo zero sulla forza lavoro, il famoso just in time, che è quello che poi, sempre per ricreare un gancio, avveniva anche appunto nella provincia di Roma con il CARA di Castelnuovo di Porto, e che chiamavano le persone a lavorare quando i facchini dell'Hub di Fiano facevano lo sciopero. Quindi, nel senso, anzi, viene da pensare in buona fede che sia assolutamente fatto apposta questo stretto legame. Cioè, poi appunto la Sicilia forse in questo rappresenta il massimo, avendo luoghi enormi come Mineo, e quindi anche proprio appunto Mineo è a ridosso della piana dell'Icatania, che è un mercato agrumicolo. Quindi senti, tu parlavi di caporalati, agricoltori, quindi sono le persone a diretto contatto con i migranti, ma poi gli interessi rispetto a questo lavoro non sono esattamente quelli dei caporali e degli agricoltori, nel senso che questo lavoro, che sembra così arcaico, fuori dai tempi del bracciante, poi è legato alla grande industria, alla grande distribuzione. Quindi sapete poi alla fine quali sono i grandi interessi, descrivere i grandi interessi che ci sono dietro queste forme di sfruttamento, quindi andando un po', diciamo, a monte della filiera? Sicuramente sì, nel senso è ovvio che poi il responsabile sta molto in alto ed è molto distante e soprattutto è anche molto inconsistente, nel senso che poi i produttori a loro volta si uniscono nelle OP, le organizzazioni di produttori, che sono altro che poi i colletti bianchi delle campagne che tengono. Poi vabbè, il Foggiano in questo è un po' diverso dagli altri territori, perché essendo una delle province tra le più grandi d'Italia ha ancora il latifondo, quindi in realtà le aziende lì sono grandi aziende agricole, ecco, diciamo il piccolo produttore sofferente è qualcosa che esiste ma è marginale, comunque che anche lui a sua volta è vittima proprio della filiera e di quello che nessuno nomina mai. Martina non lo nomina mai, il DDL in discussione sul caporalato non lo nomina mai, che è la grande distribuzione, e ci riagganciamo anche qui a Carrefour, quindi anche questo, no, è un invito a dire che alla fine le lotte si toccano non solo perché sono lotte, ma perché vanno poi a insistere sugli stessi attori che sono la causa di molti dei mali. Senti, una cosa un po' per arrivare un po' alla fine della chiacchierata era, noi parliamo, quando parliamo di queste lotte spesso descriviamo le condizioni tragiche poi delle persone che devono subire particolari forme di sfruttamento, però c'è sempre un'altra faccia della medaglia, cioè queste persone non sono solo sempre delle vittime che subiscono le condizioni, ma poi dimostrano di essere in grado di organizzarsi e in qualche maniera sorprendere i loro sfruttatori e ribaltare un po' la situazione. Quindi, per concludere, diciamo in crescendo, se no diamo sempre una visione tragica di tutto, di raccontarci un po' invece cosa sono riusciti a fare questi braccianti, questi migranti, come forme di auto-organizzazione di lotte, anche come risultati ottenuti. Sì, assolutamente sì, nel senso che dopo diversi anni appunto di conoscenza e di contatto e anche di altri momenti di lotta, però ecco, da settembre, da quest'autunno ad oggi, la lotta ha acquistato una consapevolezza e una forza maggiore. I lavoratori presenti nel Foggiano hanno portato a casa, tra l'altro recentemente, le prime vittorie dopo un autunno-inverno di lotte, ovvero l'ottenimento dei permessi di soggiorno, e quindi ci ricolleghiamo poi all'inizio del discorso, che sono un elemento dirimente per poter poi iniziare qualsiasi altro percorso di lotta, molto probabilmente anche per lasciare le campagne, perché appunto anche questo è una pezzo che voglio lasciare là, però ecco, ci sono persone che sono ostaggi della legge sull'immigrazione o della non legge, visto che sono 13 anni e forse sarebbe il caso di buttarci un occhio, ma nessuno la nomina, che si trovano bloccati, che tanto l'Italia non ti espelle e tu rimani lì, però al servizio appunto in questo caso della trasformazione, della raccolta del pomodoro. Quindi in realtà quella è stata una lotta importantissima che gli ha permesso anche riconoscimento della delegazione di questi lavoratori auto-organizzati, che adesso hanno iniziato anche a interfacciarsi con i responsabili e del trasporto e della casa. Quindi ecco, sicuramente appunto, sempre per non avere una visione solo negativa, la lotta paga, è assolutamente vero, e i lavoratori delle campagne, nonostante vivino in condizioni di totale isolamento e sfruttamento, sono riusciti a farlo. Ecco, per concludere, un po' divagando su un altro argomento ma sempre di interesse, uno degli aspetti, diciamo, delle politiche neoliberiste è la creazione degli slum, cioè in paesi di grande sfruttamento le persone che non riescono, diciamo, a stare al passo con le esigenze del sistema dell'economia vengono cacciate ai margini e sviluppano forme di urbanistica informale, come sono gli slum, sono presenti in tutte le grandi metropoli del mondo, e mi sembra poi di aver visto anche in Puglia si sono verificati fenomeni del genere, quindi agglomerati spontanei, diciamo baraccopoli o quant'altro, per sopravvivere. Niente, se ci puoi raccontare qualcosa rispetto a queste forme appunto di vivere, queste forme di abitazione che poi sono molto strettamente collegati al tipo di sfruttamento che le persone ricevono. Sì, quelle forme appunto abitative auto-organizzate, i famosi ghetti, borghi e quant'altro, sono diciamo anche quello il risultato del fatto che nessuno ha mai affrontato effettivamente l'organizzazione del lavoro agricolo. Quindi da contratto tu mi devi dare, soprattutto nel lavoro stagionale, e il trasporto e l'abitazione non viene data, e quindi ovviamente uno si organizza. Quindi esistono poi i ghetti cosiddetti spontanei e auto-organizzati, dove tra l'altro anche lì sono molto varie ed eventuali, ma si creano poi anche forme di business con connivenza di italiani e ovviamente anche di non italiani, e dall'altra parte poi, ma quello è un po' il fiore all'occhiello poi di questo paese, è stato i ghetti istituzionali, perché la risposta alla rivolta di Rosarno un anno dopo fu la famosa Tendopoli, che ancora oggi langue, e anche lì potremmo appunto casomai parlarne in un'altra occasione, però ecco, rappresenta quel famoso modello di accoglienza a Rosarno che è chiaramente fallito, quindi diciamo è un modo, no, assolutamente pensato e voluto, no, sia di dire ti faccio costruire il ghetto e sia di dire te lo metto io il ghetto, quindi è la stessa identica cosa, perché è sempre funzionale, no, a anche l'organizzazione del lavoro. Senti, io mi devo tanto scusare con la nostra ospite perché avremo bisogno di molto più tempo per approfondire la questione, però ovviamente rimandiamo a un altro appuntamento in cui magari oggi abbiamo dato un po' un'inquadratura generale sul lavoro migrante, cercheremo poi di approfondire, comunque di seguire le situazioni più interessanti, ma visto che purtroppo siamo abbastanza in conclusione ti chiedo un po', niente, lascia a te la parola per concludere e dire un po', ecco, quello che pensi sia necessario dire in chiusura di questo intervento. Allora, a parte sicuramente questo può essere l'inizio di altri incontri per approfondire sia sicuramente il tema del lavoro, perché questo è un percorso che nasce proprio per affrontare e cambiare le condizioni di lavoro in agricoltura nel Foggiano come altrove, e necessariamente anche per affrontare, demolire, abbattere l'attuale non legge sull'immigrazione come all'attuale non legge sull'asilo. Quindi ecco, questo sicuramente è un'altra, lo rilancio nuovamente, là sono interconnessi percorsi, soprattutto se la manodopera in certi settori è essenzialmente non comunitaria, e lascio anche dei riferimenti se uno vuole andarsi a leggere due cose: il sito campagnaellotta.org e la pagina Facebook Comitato dei Lavoratori delle Campagne. Grazie. Va bene, noi invitiamo i nostri ascoltatori ad informarsi su questi siti, e anche qui, visto che poi riprenderemo l'argomento, purtroppo oggi siamo un po' alle strette con i tempi, quindi vi saluto velocemente, saluto la nostra ospite, ringrazio per essere stata con noi, e poi un brevissimo stacco musicale, poi andiamo all'ultimo spezzone, come ricordo, come avevo annunciato all'inizio, che parleremo della repressione in Egitto, un tema che già abbiamo affrontato, e daremo altri aggiornamenti, quindi a tra poco.